Figliolo, c'è una cosa che devo dirti. Non sono tuo padre. Sono tua madre. Beh, io non sono tuo figlio. Sono una marionetta, ia ia. Sono una marionetta, ia ia. Vi piacciono le sorprese shock? Provate Vivident Blast. Vivident Blast, shocking freshness. Signore e signori, buonasera, eccoci. Appena scoperto una cosa fantastica. Quale? Nina? No! Ok, andiamo avanti, allora presentiamo il pezzo. Ho ancora un po' di, un minimo di dignità mi è rimasta, ancora qualcosina. Presentiamo il pezzo del giorno, presentiamo l'argomento del giorno. Che è una miscellanea sulle nostre amiche figure retoriche che vi stiamo portando, diciamo, come pena e flagello da un paio di settimane ormai. Finiremo la settimana prossima, che è quella del giusto 6 luglio. 6 luglio, sì. Con un excursus particolare un po' dulcis in fundo. Oggi invece faremo un po' un'introduzione di altre figure retoriche. Possiamo dire le preferite della Nenia? Prima miscelliamole tutte. Miscellanea mi piace un sacco. Ah, cosa ci sta? Ci stava un pezzettino qua, ecco, per mescolare, ecco, tutto. Che è la sigla della zingara di Luna Park, Cloris Broska. Questa ci stava veramente bene. Attenti alle prossime puntate, alle prossime sigle, Se ecco, sarà bene. Ve ne abbiamo messa una un po' fuori di testa, anche piuttosto recente, come spot, perché vi facciamo un po' di spoiler oggi, tra brani musicali e introduzioni così, vi facciamo un po' di spoiler anche su quella che è la tematica della settimana prossima. Sui piani estivi. Sì, ne abbiamo qualche idea. Sì. Non ci ferma nessuno. Il meglio deve ancora venire. Cavi. Carissimi. Cavi. Ma quindi, allora, che si dice oggi? Che innanzitutto, pubblicità di oggi, c'era un onomatopea, che era il nome del prodotto. Blast in inglese è onomatopeico. Intanto per farvi fare un ripassino di quello che è stato il tema della puntata scorsa, o di addirittura due settimane fa. Io ho completamente perso la memoria. Per me ieri era 2 anni fa, vi dico solo, ecco, questo, perciò non faccio anche test. Non so che giorno è oggi, non so che giorno era ieri, chissà domani che sarà. Io non ti conosco, non so chi sono, più che altro. È ben diverso, è molto più grave. Se c'è qualcuno all'ascolto che lavora in un RSA, può fare qualcosa per noi due venendoci a prendere, ricoverandoci. Facciamo, sì, a questo punto. A questo punto, insomma. E invece no, invece rimaniamo qui, sedute. In gran sollazzo, con questo gran freschino, sì, perché abbiamo un ventilatore, niente male. Un ventilatore con 3 lattine, prima c'erano anche 3 lattine di birra ghiacciate davanti, per fare un po' alla grande Lebowski, no? Per cercare di refrigerare la stanza in una maniera, insomma... Ci abbiamo provato. Sbagliato film, non era grande Lebowski. No. Basta, io vado mi a casa, faceva ciao. Più pubblicità Coca-Cola, ma vabbè. Non lo volevamo come dire. Come Coca-Cola è uguale cacca, allora cacca-cola. No. Mia mamma mi ha sempre detto la cacca-cola. Sempre. Che bello. Come poteva venire fuori una figlia così, se no. Ciao mamma. Perché fa male ai dentini, allo stomaco, ai bambini. E anche alle ossa. Ecco. Mamma, all'ascolto, non date la Coca-Cola ai vostri figli. Ecco, perché l'acido dategli non fa il chinotto. Bene. Sì, oddio, dategli l'acqua del rubinetto, ah, possibilmente, dai. Sì, ogni tanto, ma l'acqua del rubinetto è la cosa più bella e più buona e più salutare l'acqua del mondo. Sindaco, tra l'altro io farei... No, ecco, detta così... una piccolissima polemica, neanche una polemica, segnalo un po' insomma ai nostri amici che ci ascoltano su Firenze, ma non solo, che è nata una fantastica... Poi sarò velocissima e poi davvero andiamo avanti con il tema di oggi. C'è una fantastica propaganda comunale... qui a Firenze, dove, per la quale sono stati ingaggiati alcuni writers che stanno riempendo la città di stencil contro quella che è insomma l'attività dei cosiddetti venditori abusivi, detti anche Vucumpra. Io ieri mi sono andata a leggere il post su Facebook di Nardella, i commenti a seguire, e ragazzi, c'è da mettersi davvero le mani nei capelli. Non ho davvero parole, sono... No. Non posso esprimere veramente quello che penso e quello che sento, perché comunque, per quanto ci troviamo in una radio libera, siamo comunque soggetti a eventuali problemi in futuro. Posso soltanto dire che questo fa veramente schifo. Sì, tu, writer, che ti vuoi veramente elevare all'angelo del bello. Non posso dire nemmeno quello, perché... cioè, tutto quello che potrei dire andrà prima o poi contro di me, ovunque. Però... E allora sappiate che non mi sto esprimendo, e questo è già un è segnale. È già tanto. Ecco. Che conoscendo la Nenia... Zippo la bocca e spero che tanti fulmini caschino a terra. Esatto, non posso aggiungere altro, sono nauseata. Ecco, era giusto anche un po' per sensibilizzare chi ci ascolta, perché tra le persone che ci ascoltano sicuramente ci sono writers, i poppettari, tutti gli amici del Mortal Wombat, che sapranno già tutto di questa storia, per cui insomma... Schifo, occhio. Merda e schifo, non posso davvero dire nient'altro, perché non... Chissà, non se sono in grado di gestire. Ne parleranno i nostri amici a... Beh, non è proprio un tema da passaggio nord-ovest, però... Potrebbe diventarlo, potrebbe, certo, essere un qualcosina. Mi hai fatto venire in mente che oggi ho incontrato una persona che si è lamentata tantissimo perché, non so, ieri o l'altro ieri c'era un gran traffico e ci ha messo 20 minuti per arrivare a Novoli anziché 10 minuti, e quindi va, va, va. E dopo 20 minuti ho avuto la splendida occasione, il grande, non so, regalo di parlare con un ragazzo senegalese che è riuscito ad arrivare in Italia dopo 2 mesi e mezzo di viaggio. Di barca, di attraversamento del deserto. Tutto, ha fatto di tutto, 2 mesi e mezzo di viaggio per arrivare in Italia, e ho semplicemente accostato questi 20 minuti di distanza che hanno separato un 10 minuti di ritardo per Novoli con 2 mesi e mezzo per arrivare da un posto che in realtà poi è nemmeno troppo lontano. Ecco, per cui... Quindi basta questo, perché boh, via. La legalità, perché a altrimenti questo... poi facciamo, ecco. Sì, facciamo una puntata polemica, di passaggio in voglia, però è chiaro che non fanno mai polemica loro in forma. Bene. Speriamo nella cultura, noi ci proviamo un po' dal nostro canto qui in Radio Wombat a cercare di portare un po' di cose belle, ecco, tra musica, argomenti, chiacchiere, sollazzi vari, ma anche tematiche serie. Per cui seguiteci ai nostri social, ovviamente sul sito, anche se, insomma, visto che ci state ascoltando, sarete collegati, e scriveteci tante belle mail a postawombat@insiberia.net. Brava Nina. Così si fa. Ecco, cosa facciamo adesso? Prima di parlare di me... Metonina di metonimia, di sineddoche, di sinestesia e di esempi coltissimi che abbiamo trovato solo per voi, ci sta insomma anche un pezzo un po' per riprendere fiato. Vai, vado, faccio. Mi piace, io, ma sì, la roulette, oggi fai tutto tu. Guarda, sentite che roba, ragazzi. Se

Allora, cosa facciamo? Maestra Nenia. Partiamo, dai. Oggi dirigi tu le danze. Ancora? No, ti prego. Oggi mi aiuti tu. Dai, gli animalini ho provato a dirigerli, solo che c'è stato un casino con i microfoni. Non ti sei sentita, è vero, no, però... Scusa, tra l'altro è stato scusate per la pessima performance della puntata scorsa, ma c'è stato un problema evidentemente a un microfono che ha un on-off decisamente relativo. E, capita, succede. Anche alle trasmissioni migliori. Allora... Di cosa parliamo oggi? Metonimia, sineddoche... Allora, intanto partiamo con la querel. Oh, brava, metonimia, così mi piace. O metonimia. Ecco, questo è un grande dilemma. Se voi avete la soluzione, se sapete come si pronuncia questa parola, potete tranquillamente scriverci. Io ho sempre detto metonimia, cioè... Anch'io, però non lo so se è giusto. Ditecelo. Ditecelo voi. Perché a me, appunto, a scuola mi dicevano... Ti frustavano per farti dire cosa? Metonimia. Allora, dicono però, dalla Treccani, per prendere il primo risultato, che si dice in entrambe, la parola si pronuncia con entrambe le accentazioni, metonimia o metonimia. Se ne distingue perché si basa sul rapporto di scambio tra diverse categorie, sul rapporto di... Vabbè, questa poi è la... è un tropo, poi ve lo spieghiamo. E insomma, stiamo poi entrando in realtà nel merito di quella che è la figura retorica. Per la pronuncia si può dire in entrambe le maniere, deriva dal greco metonimia, per cui magari se uno volesse fare un po' il figo e essere più corretto potrebbe riprendere la pronuncia greca che ha appunto la O lunga e l'accentazione acuta sull'ultima I. Che ha sempre il suo fascino e fa una gran bella figura, certo. Ma io qua vi stiamo dando delle dritte anche per andare, che ne so, a San Salvi, per dire, alla serata a bervi il birrino a San Salvi, per dire, imbroccate le tipe così, dai, è su! Chiaro! E anche, ma è sineddoche, è solo sineddoche o si può dire sineddoche? O sineddo. Sineddoche. Do. Do. È sineddoche questa, non per la nostra lingua è sineddoche, sì sì. Ma sentiamo un pochino. Sono allora entrambe figure ta-ta, legate sempre, al tesori, piano semantico. Certo. Figuriamoci, se no, scusa, mica si sta qui a friggere con l'acqua. Avete mai provato a versare un bicchiere d'acqua in una pentola di aria bollente? No, cattiva. Cattiva. Non lo fate, dai. Su. Come nei telefilm, non fare questa cosa perché altrimenti muori. Se volete una frittura più croccante potete provare. Maledetta. No, a parte gli scherzi. Frittura croccante, pastella con la birra. O solo farina. No, quello è un mattone. Passate farina le... e birra. Io sapevo anche soltanto passare e la roba nella farina un'altra e basta. Quella è un po' insemolata, un po' impanata. Che fame. Vabbè, andiamo avanti. Allora, nelle puntate... Come siamo arrivati a parlare di ste cose? No, vabbè. Nelle puntate... Perché tra l'altro, fame. Una puntata... Stamattina che non mangio. Una povera... Ma abbiamo il nostro alimento nobile qui, la nostra ambrosia a fianco. Ecco. Faremo una puntata anche sulla cucina. Preparatevi, perché faremo una puntata sull'origine dei nomi dei piatti regionali. Che bello. Io ho due amici prontissimi che ci potrebbero aiutare a fare questa cosa. Sono già fuori dalla porta che bussano. Toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc. Ma per caso qualcuno già lo so chi è? Sì, uno sì, l'altra ci arriverai fra due minuti se ti dico altre due informazioni su di lei. Quindi continuate ad ascoltarci perché ovviamente non avete sul sito la scaletta, non avete la programmazione in itinere di quelle che sono le nostre puntate, ma ci dovete ascoltare di volta in volta per scoprire con cosa vi... vi ottureremo le orecchie o vi delizieremo. Pappavero. Pappavero. Basta, sto parlando troppo oggi. Allora, abbiamo la nostra amica metonimia come prima figura di, diciamo, trasferimento semantico, perché nelle puntate precedenti abbiamo parlato delle figure retoriche più legate al proprio al significato e più legate a, sì, al significato, perché per esempio la aiuto. L'onomatopea è legata al significato. Invece qui abbiamo proprio la metonimia e la sineddoche, che sono figure di trasferimento semantico. In particolare la metonimia si fonda sulla relazione di contiguità logica o materiale tra un termine letterale e il termine traslato. Ovvero, sembra un po' difficile, ma in realtà non lo è. Facciamo un esempio proprio. Ho comprato un Raffaello. Ecco. Se noi prendiamo questa frase, cosa succede? Che possiamo vedere che nell'enunciato abbiamo un'azione e abbiamo un nome che in realtà non fa riferimento al piano semantico, diciamo, di una persona, ma fa riferimento al piano semantico degli oggetti, in particolar modo della sottoclasse, dei quadri, delle opere d'arte, eccetera, eccetera. Quindi non il signor Raffaello, esatto. Non sono tornato a casa con un Raffaello sotto braccio, ma con un suo dipinto. Che scena bellissima, conosco il Raffaello. Scena molto bella. È molto pesante questo Raffaello. Così come ho bevuto un Chianti, non è che ho esatto. bevuto un'intera area geografica, ma qualcosa ho che... Ho fatto benzina? Ho fatto... Quella è un'altra cosa, è un'altra l'utilizzo cosa. Del verbo fare che esatto, modifica. Perché non abbiamo in questo caso... perché generalmente nella metonimia la figura retorica si riflette sull'ultimo, diciamo, chiamiamolo termine, di paragone, sull'ultimo elemento della frase, sul complemento oggetto di specificazione. Come dire, ho bevuto un bicchiere di troppo. Tipo, ho bevuto un bicchiere di troppo. Ho bevuto una... Mi sono fatto una bottiglia, mi sono fatto un bicchiere. Ho bevuto un bicchiere di... Cioè, non è il bicchiere di per sé. Mi sono mangiato un piattino. Esatto, sì. Quel cambiamento lì, quel dare quel significato. E questa appunto è la nostra amica metonimia. E appunto, quindi, alla luce di questo esempio, cosa possiamo vedere? Che si ha la sostituzione di un termine con un altro che ha un rapporto di contiguità con il primo. Quindi, nei casi più comuni, nell'enunciato si possono sostituire la causa con l'effetto e viceversa. Il concreto con l'astratto, l'oggetto con la materia, il contenuto con il contenente, e in questo caso, per esempio, l'autore al posto dell'opera. Esatto. Quindi sono anche queste delle figure retoriche che usiamo tantissimo nella lingua quotidiana. Sì, questa è anche una... Quasi parliamo per metonimia. Anche sottovalutata, perché davvero si usa senza... rendersene conto. E infatti la cosa bella di queste puntate è che stiamo cercando proprio di fare il punto per riflettere su come in realtà la nostra lingua così colorata è ricca di elementi che non sappiamo classificare, nel senso li utilizziamo quotidianamente ma non pensiamo a cosa corrispondono tra le onomatopee, le metonimie e anche le sineddoche, che poi tra un pochino vi spieghiamo. Quindi Raffaello sostituisce quadro, Chianti sostituisce vino, bicchiere sostituisce X, acqua l'oggetto. Piuttosto che... e così via. Questo è il nesso. Esatto, e oltre che essere una figura di trasferimento semantico è anche una figura da un certo punto di vista di specificazione. Perché se io... e anche di, come dire, con abbreviazione, nel senso... L'italiano è una lingua che ha bisogno di molti elementi per esprimersi, perché complementi, oggetto, specificazione, eccetera, eccetera. Se noi diciamo ho comprato un Raffaello, stiamo sintetizzando un concetto. Ho comprato un quadro dipinto da Raffaello, ho comprato un quadro di Raffaello, e questo ne sottintende la preziosità, il valore, l'antichità, eccetera, eccetera. Quindi noi con un nesso unico, Raffaello, scusate, con un termine unico, riusciamo a dare tutta questa... Ad arricchire linguisticamente la... quello che stiamo ho preso scrivendo, tre caffè barra. Oggi, ecco perché sono che così. Brava, io sono uno, sì, lo sento. Infatti ho l'effetto super Vicky. Wow, bella Vicky. Ho l'effetto super Vicky. Ecco sì, nedo che. Sì, nedo che. Sì, nedo che. Ma facciamo una pausa musicale. Sì, dai. Ora il brano lo sceglie la Nenia e mi dice... Deliro, posso? Sì, sentite un po'. Io parto, cosa... lo sapete che è quello che scelgo io, oh, un po' ragazzi. Così. Pronti a ballare. Eccoci di ritorno, Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy, tutte queste canzoncine a tema pazzia, perché la prossima settimana lo capirete. Scusate, ma io ho messo il pezzo tamarro, come sempre, per farmi riconoscere. Ci sta, ci sta. E quindi una figura retorica pro capite stasera. Vuoi introdurre tu la nostra amica Sineddo? Che? Ma certo. Che cos'è? Che cos'è? È questa figura retorica che appunto fa parte dello spettro semantico, posso chiamarlo così? È bellissimo lo spettro semantico, sa quasi di quantistica. E stiamo parlando di un trasferimento di significato, sempre da una parola all'altra, in base ad una relazione però di contiguità. Quindi mentre prima abbiamo parlato di una contiguità più spaziale, temporale o causale, nella sineddoca invece la relazione è più di un'estensione maggiore o minore. Nel senso, la parte per il tutto, tipo una vela si intende tutta la nave o viceversa, il genere per la specie, quindi per esempio genere per la specie è come immortali per tutti gli uomini e viceversa, come noi comuni mortali si intende noi uomini, e il singolare per il plurale e viceversa. Quindi lo studente ultimamente no, forse questa è troppo specifica. Il ruolo del professore è bla bla bla bla, si intende chiaramente per tutti i professori, non solo per un professore. Anche qui abbiamo diversi esempi, appunto quello della vela, ce n'era un altro carino, aspetta, vediamo se lo ritrovo. No, l'ho perso. Ah sì, no, forse era quello degli esseri comuni e mortali, sì. È un po' esatto. Questo, quindi fa questo passaggio che anche questo è parecchio usato nel quotidiano, nel parlato, se anche un po' sottovalutato, sì. Forse, sì. Si usa tanto perché appunto magari anche tipo questa cosa dei comuni mortali, come uno dei tanti esempi di Sineddo che magari è utilizzato più in maniera scherzosa, mentre invece questa una parte per il tutto, per esempio legata alle vele per la nave, alla frutta forse anche, sì, per tutti i tipi di frutti, sì, esatto. Bisogna mangiare frutta, sì. Potrebbe essere anche questo un tipo particolare di sineddo che è molto semplice, un frutto forse anche. Non si specifica, no, uno no, perché gli abbiamo dato una categoria di numero. Però comunque sono figure retoriche che si trovano, che utilizziamo davvero quotidianamente. Questa, come la metonimia o metonimia, è estremamente importante, fa molta ciccia nel nostro parlato quotidiano. Voglio portare un esempio sessista. Vai. Donna al volante. Pericolo costante, poracci. Sì, pericolo, perché sappiamo guidare meglio di loro delle volte, sessista due. Doppiamente. Però ecco, al volante sta per alla guida di un'automobile piuttosto che di un camion, volendo. Ma anche donna. No, sì, donna. Beh sì, in quel caso probabilmente nel contesto è comunque riferita a un singolo, però in generale il volante o le due ruote, per esempio, esatto. Sono dire... Due ruote, quattro ruote. Andare con le due ruote, che si intende poi il motorino X, esatto. È anche questo un modo di mettere in tavola, sì, la sineddo, che... Visto quante cosine belle che vi... Mangiare un piatto. Diciamo. Un piatto. Questa è anche, attenzione, perché potrebbe essere anche potrebbe rientrare, metonimia. E infatti per questo si gioca su questo confronto, perché molto spesso il confine è labile. Soprattutto, cioè in realtà tecnicamente non lo è, però nel parlato ci sta che poi si possono confondere due piani. Spiegare un pochino, si faccia un po' di gaffe, si caschi da l'una all'altra. Come possiamo dare, diciamo, quale indicazione possiamo dare nella distinzione tra la metonimia e la, cioè nel senso, come distinguiamo metonimia e sineddoche? Cioè un vero e proprio confronto, dici? Guarda, esatto. Io ho trovato un sito molto carino che ne fa, cioè in poche righe lo spiega in maniera anche molto chiara. E parla proprio di discorso di parentela, cioè la parentela, capito, che intercorre fra un termine parenti sostituente e brava, è il termine che invece viene sostituito. Per esempio, una parentela di tipo logico, qualitativo o di contiguità spaziale determina una metonimia. Una parentela di tipo quantitativo, quindi non qualitativo come la metonimia, ma quantitativo, che sia di numero, di estensione, quello che è, determina invece una sineddoche. E questo un po' è abbastanza chiaro, messa in questi termini, qualitativo o quantitativo. E poi per l'appunto riprende tutti i vari esempi, tipo dire il freddo per intendere l'inverno. Arriva il freddo. Esatto. Il sudore. Esatto. Cioè, il sudore della fronte, nel senso, questi soldi sono fatti col sudore della fronte. Questo infatti causa-effetto. Effetto per intendere causa invece, scusa. Questo era effetto per intendere causa. Causa per intendere effetto era appunto quella del freddo, per dire l'inverno. Lasciare le sudate carte, come diceva Leopardi. Che, oh, bello. Sono, attenzione, perché queste figure retoriche... Dai, studi e suda sui fogli del librino. A roba. Bella. Attenzione a non confonderle però anche con la metafora. Non è così un attimo, immediato. E ti frega, appena ti distrai, sì, un attimo ti frega, te lo dico, è lì dietro l'angolo la metafora, te lo, ragazzi, dico. Guardate, alle verifiche io sbagliavo sempre, sì. Uguale, ti fregano sempre così. Poi quando si facevano i compitini in classe con tutti i colori diversi per, oh, ogni mamma, di blu, di rosso, di io viola, io non avevo mai abbastanza colori. Io avevo dei problemi a distinguere un paio di colori, per cui per me verde e blu erano sempre molto simili, avevo sempre un po' di dubbi. E diverse verifiche le ho sbagliate perché invertivo i due colori. Ecco, vedi? Non è colpa, vabbè, mia. Però eri coerente comunque con quell'idea, magari il prof, sì, ci, sì, doveva arrivare. Colore che c'era freddo un... a base... Niente, perché il blu non ha base, per cui facciamo, vabbè, il verde, base gialla e blu, niente ragazzi. Vabbè. E, sempre parlando di metonimia. Sì, scusa, ti ho parlato. No, cioè, metonimia, sì. Cioè, la materia per intendere l'oggetto, come abbiamo detto, il legno per intendere la nave... E quello è Dante. Esatto, il livellegno, che abbiamo anche i bronzi del Bernini, per mm-hmm. esempio, che si assomiglia molto all'esempio che abbiamo fatto prima del Raffaello. Sì. Abbiamo, dire, un Picasso, appunto, per dire ho comprato un Picasso e ho comprato un quadro. Il luogo per gli abitanti. Molto carina questa, dire per esempio Roma per romani, lo sa tutta, sì, Roma, non è che Roma lo sa, non è un'entità vivente, è composta da abitanti che la vivono e la rendono Roma, per cui dire Roma per intendere i romani, ecco, ma qualsiasi altra città. Indicare il contenitore per... parlare, utilizzare il termine del contenitore per intendere il contenuto. Come si diceva prima... bere un bicchiere, esatto, farsi una bottiglia, mangiare un piatto ottimo, guardare un DVD, per esempio. E poi il concreto per l'astratto. Dire il cuore per intendere i sentimenti. Questa è bella. Ascoltare, sì, con il cuore. Avere fegato. E in toscano anche avere cuore di... è vero. Non ci ho avuto il cuore di, nel giusto, senso... brava. Fuori fa un caldo terribile, devo andare a comprare le uova, non ci ho avuto il cuore di andarle a comprare. Avere una buona mano. Ecco. Usa il cervello. Guarda, ma ragazzi, ma che una bellissima, ma la Nina, ma che mi piace tanto è avere una bella penna. Oh, guarda, molto come anni gioca 60. In casa. E questo apparteneva alla metonimia. Io sì, me la mantengo come l'ho imparata e non vario. Metonimia. Dite come volete, basta che non dite metonimia. Io devo stare sulle mie, ecco. Non fare troppe variazioni perché oggi non è giornata. Ecco. E invece la Sinedo, che quando parliamo di parte che intende il tutto, si è detto appunto le vele per le navi, due ruote per il motorino, oppure il genere per intendere la specie, quindi mortale per intendere uomo, o cacciare il felino, innaffiare la pianta, mangiare verdure. Esatto. Tutto questo, chiaramente, genere, specie, ci siamo. Quindi se volete distinguere praticamente da una metonimia a una sineddoche, potete tranquillamente farvi la domanda. Allora, se è sineddoche, che cosa vado a sostituire con la sineddoche? Soltanto due tipologie, diciamo, di elementi. Il genere per intendere la specie e il singolare per intendere un plurale. Per esempio, il tedesco è puntuale. Lo svizzero è puntuale. Lo spagnolo è festaiolo. È vero. E qui c'è anche un po' di rimetta. Spagnolo è festaiolo. E sì. Quindi, come vedete, la sineddoche ha anche molti meno elementi, invece la metonimia è più estesa ed è per quello che è molto più difficile anche da rintracciare all'interno di un testo, insomma. Mi sono resa conto che stiamo parlando da un sacco di tempo, sì. Quindi grande pippone, poca musica, dobbiamo rimediare assolutamente. Musica. E questa è colta, per cui non pensate di... Sì, ragazzi. Thank you. E lui era Josef Van Wissem, che è stato anche a Firenze a suonare, mi sembra, lo scorso febbraio, a Villa Vogel, ed è stato un bel concerto. Oggi siamo colte, infatti non è finita qui. Vediamo che cosa proporvi, così come ultimo pezzo, che ormai ci stiamo avvicinando alla fine della trasmissione. Vedremo se buttarla un pochino più sull'elettronica o su chi vivrà vedrà. Classicismi. Chi vivrà e vedrà. Guarda. E quindi... Io invece volevo, vabbè, sulla sinestesia poi si vedrà. Vediamo. Tanto la sinestesia alla fine è quella figura retorica più conosciuta di accostamento di termini che appartengono a sfere sensoriali diverse. Magari potrebbe diventare una prossima puntata, lasciamola in sospeso. Esatto. Io la salterei perché ormai è tardi, secondo me non la possiamo fare adesso. Esatto. Vi facciamo però qualche esempio colto. Sì, io voglio gli esempi colti, dai, li diciamo tutti, ti prego, velocemente. Spoilerone della prossima puntata. Nell'Orlando Furioso c'è una metonimia, il calamo omicida. Il calamo, che è un oggetto, diventa l'arma di un delitto ed è, come dire, silenzio perché sto cercando un termine che possa... Perché è difficile parlare, non possiamo storpiare quello che è già stato fatto con massima perfezione. Io lo leggerei semplicemente così. Volgonsi e tutti gli altri a quella banda, onde era uscito il calamo omicida. E dai, è più di così. Lo capite, insomma. C'è un'altra metonimia che forse è ancora più complicata, perché è del maledettissimo Pascoli. Canti di Castelvecchio. C'è un falcetto lucido ancora sulla Pania, a fior del sereno, dentro l'aria dolce e codora ad un tiepido odore di frizione, perché era in salita e non gli andava. C'è un tiepido, esatto, sulla salita che c'è verso via dei Massoni generalmente, odore di... Questa frizioncina. E il falcetto lucido non può essere altro che uno strumento di lavoro. Chiaro. E, ma la santa? La santa, perché non è finita lì, nel canto di Castelvecchio. E quando viene Santa Maria che rende all'uomo l'arma sua lunga, o la covata vostra, già sia buona volare, che non vi giunga. Vabbè, volevo finire la frase, ma... Poi abbiamo invece, per quanto riguarda la sineddoche, sempre di Pascoli, ce ne dai una? Di Pascoli sempre? Sì. A me non mi piace Pascoli. No, però ormai c'eravamo. Chi perché mi piace, vabbè no, non posso fare anticipazioni. Chi io veda i due peschi, i due meli soltanto, che danno i savi lor mieli per il nero mio pane. Sì. Quindi i mieli sono... un termine che viene utilizzato per fare riferimento ai dolci frutti che questi due alberi producono. E invece la sineddoche del nostro amico? Non fu sì santo né benigno Augusto come la tuba di Virgilio suona. Ma che... Che in questo caso, forse questa ti è quasi più la magliettina, una metafora. È quasi più una metafora, però, perché sapendo com'è Virgilio... Ah, beh, vabbè, sì, buona. Però, insomma, è in realtà una sineddoche. Ma abbiamo ancora, ritornando a prima, a Pascoli, c'era un lume lassù in Mamai, un gran lume di fuoco e d'oro. Questo è il fringuello cieco. Purino. Un gran lume di fuoco e d'oro è un focolare? Ci manca tutto il contesto intorno alla poesia, ma potrebbe essere, per esempio, un focolare. E questi erano alcuni esempi coltissimi che abbiamo trovato dall'Orlando Furioso e da Pascoli con i canti di Castelvecchio, e componimenti Il ritorno delle bestie, e Nebbia e Il fringuello cieco. Come diciamo noi in Sardegna, Nebbia. Anch'io a Ferrara, io sono stata contagiata, ma a Ferrara si dice Nebbia. Vedi? O la Fumana. pipistrello o pipistrello? Pipistrello. Colonna o colonna? Colonna. Che bello, alla barcaccia ho citato una trasmissione, ma sono meravigliosi, non potevo non farlo. Cattivi c'è sempre siete. Questo tipo che manda i messaggi... Colonna? si dice dopo o dopo, e c'è una grande diatriba tra il dopo, e dura penso da mesi ormai. Ci faremo una puntata e la manderemo alla barcaccia. Sì, è molto divertente, loro poi chiaramente gestiscono queste polemiche in maniera esilarante. Loro, come dire, sono dei maledetti perché hanno veramente il dentino. Possiamo dire una parolaccina: fottuti geni. Fottuti geni, ma anche stronzi, perché fantastici. Io adoro la rubrica sulle voci, le voci stonate. Oh. Sì, grandi amici. Meraviglia. Citiamo sempre altre radio che non sono belle come le nostre, ma in realtà noi le ascoltiamo perché sono bellissime. Sì. Sì, ma sono veramente colti, devono essere veramente dei bei personaggini. Penso mi piacerebbe che incontrarli. Io un po' me li immagino come il mio prof di storia, il professor Pianesani. Li ho visti in diretta radio, comunque insomma, non mai di persona, però mi piacerebbe incontrarli. Ma questo esula dalla nostra trasmissione. Stavo dal per invitarli finale. A cena. Ok, alla prossima puntata allora li inviteremo a cena. Adesso è il momento. È il momento dell'agendina degli appuntamenti, che non prevede chissà quale gran fatica, o meglio, sicuramente c'è qualcosa di strabello e interessante in giro, ma io non ho degli aggiornamenti rilevanti. Fatemi però perché anche noi stiamo un po' vivendo il peso dell'estate e quindi ci aggiorniamo un po' meno, ma sicuramente c'è qualcosa da fare in giro, perciò vi invito a continuare a vedere i siti che vi abbiamo sempre proposto, il nostro della radio sicuramente, nonché quello degli amici della Polveriera, esatto. Piuttosto che degli amici del Next Emerson, piuttosto che di tutti gli spazi occupati che sono tutti i nostri amici. Ma qui vedo invece una cosa molto interessante che va poi là nel tempo. Sì, però io inizierei a divulgarla da ora, infatti, perché comunque è una cosa interessante di cui si parla poco ancora, purtroppo. 11 luglio, martedì, ore 21:30, Cinema di Castello. Il Cinema di Castello, che è in via Reginaldo Giuliani, tra Careggi e Sesto Fiorentino per intenderci, nell'arena estiva, quindi si frescheggia, insomma lì si respira una buona aria perché Montemorello ci regala un sacco di ossigeno. C'è la proiezione di Binxet, è un film interessante Binxet. Sotto il confine documentario su Rojava. La regia di tale Luigi, un tipo insomma in gamba, che ha preso la telecamera, è andato lì e ha fatto un gran lavoro. E niente, riusciremo a sapere un pochino di più da chi realmente ha toccato con mano la realtà in questa zona che si sta davvero sbattendo per un pochino di democrazia dal basso, di libertà dei popoli dal basso. E boh, se volete venire a vedere questo film, noi sicuramente ci saremo martedì 11 luglio alle 21:30. Dai. Bene. Siateci, ma comunque noi ci sentiremo prima, ve lo ricorderemo anche giovedì prossimo, che è il 6 luglio. Sì, c'è ancora un giovedì e sicuramente tutte le trasmissioni ce lo ricorderanno. A questo punto ricordo, ascoltiamo Radio Wombat in tutte le sue salse, quindi salsine, salsette. Guardate un pochino il palinsesto sul sito che abbiamo citato poco fa, wombat.noblogs.org, lo ripeto, e sollazzatevi un pochino con il palinsesto super ricco. Un sacco di cose, un sacco per la vostra estate fiorentina o meno. Ecco. Rimanete in attesa perché fra pochissimo parte Naoto. Posso chiamarti solo Naoto? Naoto, è già ovviamente in regia. E parte 8 Hertz con una puntata dedicata all'hip hop alternativo. No. Lo astratto. Bah, che bello. Eh sì, sempre grandi sorprese. Sarò tutta orecchie. Ricchi premi e cotillon. E cotillon. Vi salutiamo, vi diamo appuntamento giovedì prossimo e ciucciatevi sto pezzo con i Quantic con Time is Enemy. Che bello. Yuhu. Ciao.